chiamo, va. E va, e tu, e tri. Questa mattina mi sono alzato, squalo ciao, squalo ciao, squalo ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e a Miami squalo andò. Miami Beach, ci voglio stato. Marco dai, Marco dai, Marco dai, dai, dai. Miami Beach, ci voglio stato e una pena porterò. Con mille scali aeroportuali, squalo ciao, squalo ciao, squalo ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e squalo non c'era più. E squalo non c'era più. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.